avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Non so quanti se ne siano accorti, ma probabilmente soltanto chi abita in zone limitrofe a aperta campagna, boschi, macchie, boschetti, insomma, zone in cui è stato possibile la domenica veder transitare i primi cacciatori, perché si è aperta la stagione venatoria. Ora, parlare di caccia è sempre stato un argomento molto succoso per Melog, perché ha suscitato delle antitetiche reazioni. Da una parte chi dice che sia un'attività, quella venatoria, propria dell'uomo e non dobbiamo perderci come appunto retaggio della civilizzazione, questa ultima appendice desiderio di avere un contatto con la natura, di residuo di spirito, di atavica necessità di procacciarsi il cibo cacciando, con le proprie mani procurarsi selvaggina. D'altra parte è un regolatore della fauna che altrimenti crescerebbe in maniera sconsiderata. I cinghiali hanno invaso grande parte delle nostre campagne, la stessa cosa probabilmente vale per altre specie animali, che il cacciatore comunque ha la funzione, di cui il cacciatore ha la funzione di regolatore. D'altra parte c'è il settore di coloro che la pensano in maniera totalmente opposta. Già questa mattina che lanciai in maniera provocatoria su Facebook la domanda che cosa ne pensavano i miei amici del fatto che oggi parlassi di caccia, figuriamoci, si è scatenato il coro delle vestali dei nostri fratelli uccellini, della crudeltà delle persone che svolgono un'attività così feroce, così incivile. Beh, volete sapere qual è la mia posizione? Non è che me ne importi veramente molto, in realtà non trovo per nulla osceno delle persone abbiano come passione quella di vestirsi in tuta mimetica e andare in giro per bosche e campagne con un fucile in mano. Ogni tanto sparano a qualche uccelletto, mi dispiace, non è bellissimo, non so cosa ci possano fare. Esistono anche prede più consistenti. Sparare cinghiali probabilmente è un'attività più interessante dal punto di vista venatorio. Le nostre macchie, boschi sono pieni di cinghiali, pullano i cinghiali, non credo che siano in via d'estinzione. Se si mangiano i cinghiali, buon pro faccia loro per il cinghiale. Vale lo stesso discorso per chi mangia galline, maiali, conigli, polli. Sono animali la cui funzione è quella di essere mangiati. Trovo un po' esagerato chi mi scrive in questo momento che vorrebbe vedere piuttosto sparare agli uomini che agli animali. Un vecchio discorso abbiamo fatto in questa trasmissione. Ma oggi vogliamo riportare all'attualità il discorso della caccia, visto che vale la pena di parlarne, visto che molte persone praticano questa attività, visto che c'è una fiorente industria che produce fucili, che produce accessori per la caccia, visto che ci sono organizzazioni che in realtà si muovono in senso contrario per fare di tutto per abolire questa attività. Cosa ne pensate voi oggi la caccia? Siete cacciatori? Trovate che sia qualcosa di anacronistico, non appartiene più alle ai ritmi, alle necessità, alle forme della nostra civilizzazione, o pensate che in realtà sia un lecito diritto da esercitare? Io sono totalmente neutrale, avendo già espresso il mio giudizio, quindi accoglierò ogni vostra istanza. 800240024. Lo so che non se ne deve fare una questione morale. Comunque io ogni volta che sento che un cacciatore muore per mano di un altro cacciatore, io gioisco. È un olocausto. Mi rivolgo a lei per chiedere dove sta la morale. Ne ho conosciuti tanti, tantissimi di cacciatori. Sono quasi tutti molto cattivi e persone a me anche molto vicine nel cerchio della parentela. Sono contenta quando ne muore qualcuno. La ringrazio dell'attenzione. Buongiorno. Con quale leggerezza e con quale nonchalance questa damigella raffinatissima e probabilmente convinta di essere portatrice dei principi di civilizzazione più avanzata, pone nella sua scala gerarchica del diritto all'esistenza il cacciatore come essere che può tranquillamente morire, anzi di cui lei si augura la morte, piuttosto che la tenera preda delle sue doppiette. È un modo di pensare, rispettabile pensiero, in quanto espresso una signora nella piena lucidità delle sue facoltà mentali, immagino. Però naturalmente ci sarebbe molto a dire. 800240024. Ma io vado a caccia e alcuni problemi me li sono posti, vorrei anche esporre. Primo, perché abbiamo delle leggi sulla caccia fatte da gente che non va a caccia e quindi non sa nemmeno come cacciare. Se pensiamo che il cacciatore, per prendere il ragazzo che va a prendere la licenza da caccia, deve indicare gli uccelli che sono imbalsamati. Ma secondo lei, quando un ragazzo poi va a sparare in aria, l'uccello è imbalsamato, quindi non conoscono né il canto né il volo, che sono le abitudini principali di un uccello? Questo è un cacciatore provetto, una persona che ama l'attività venatoria, che pone un problema di altro tipo, vorrebbe una radicale riforma nell'organizzazione della sua attività. Secondo lui occorre una maggior perizia, degli strumenti più raffinati e più intelligenti, anche per dare gli strumenti al cacciatore di esercitare in tranquillità e sicurezza la propria attività. Avete visto, abbiamo riassunto, prendendo spunto da telefonate fatte in precedenza in altre trasmissioni in cui parlavamo di caccia, due punti di vista. Colui che vorrebbe continuare a esercitare il diritto di essere cacciatore, ma farlo naturalmente in una cornice normativa più adeguata ai tempi, e chi naturalmente solo a sentir parlare di caccia prende in mano appunto gli strumenti dell'esorcismo, perché è un'attività, secondo lui, contro la civiltà. Sentiamo cosa ne pensano alcuni nostri ospiti. Innanzitutto Gianluca Dall'Olio, buongiorno. È il presidente della Federcaccia, quindi lei è in pratica il rappresentante di tutti i cacciatori d'Italia, o sbaglio? No, sbaglia, perché in Italia i rappresentanti dei cacciatori sono tanti. Dopo, insomma, la sentenza che risale al 1966, che ha riconosciuto la possibilità democratica di iscriversi ad altre associazioni. Una volta, prima del... Ma chi è la più importante, quella che ha più iscritti? Noi, questo di gran lunga, credo possa dirlo, insomma. Ecco, quindi rappresentiamo circa il 60% Non è che abbia detto proprio una cazzata delle più enormi. No, non ha detto una cazzata, però lei quando mi ha detto, l'ha detto lei, non l'ho detto io, ha detto se mi corregga, io lo correggo. Sì. Diciamo, non rappresenta tutti, ma la gran parte dei cacciatori sono iscritti alla Federcaccia. Poi ci sono altre, sì, diciamo l'altro 40%. Una buona percentuale, sì. Va bene, diciamo, ha una in percentuale una consistente rappresentanza dei cacciatori. Ecco, qual è il punto di vista, il polso della situazione rispetto ai suoi iscritti? Molti mi scrivono, ma sai, ormai è un'attività che interessa soltanto persone anziane, sono dei nostalgici di attività che non hanno più ragione di esistere. È realmente così? È possibile tracciare, in base naturalmente alla tipologia dei suoi iscritti, un ritratto del cacciatore medio italiano? Come potremmo identificarlo? Beh, noi abbiamo anche fatto recentemente una ricerca che ci ha un po' meravigliato, in quanto del campione degli intervistati, più di 1000, rappresentativo dell'universo dei cacciatori italiani, rivolti a tutti, non soltanto ai nostri, quindi era universale, universo cacciatori italiani, non soltanto Federcacciatori. E abbiamo scoperto che ci sono molti giovani, insomma, ecco, quindi noi non avevamo che dei dati un po' superati. È indubbio che il cittadino cacciatore italiano è invecchiato, questo è fuori di dubbio, e non c'è un ricambio sufficiente rispetto al calo. Le ricordo che in 20 anni i cacciatori in Italia sono calati di oltre 500.000 unità, insomma. Ecco, io per i ricordi che ho di vita agreste nei primi 20-30 anni della mia vita... Che non va più nelle campagne, sì, non pratica più la vita agreste. Purtroppo poco. Questo è un grande male, credo, coinvolge non soltanto lei come rappresentante dei cittadini, mi perdoni e mi accolga il bisticcio voluto di parole, ma credo che questo distacco pesi enormemente sulla coscienza di tante persone e che quindi abbiano un po' abbandonato tutti quelli, fra virgolette, valori che uno capiva, sentiva, lo so, lei ha perfettamente ragione, con la vita in campagna. Lei ha perfettamente ragione. Per esempio bisognerebbe dire ai bambini che le uova non le fa l'aia o Amadori, ma le fanno le galline, con un processo abbastanza complicato. Accetto la lezione, ma sa, uno staziona laddove gli strumenti per mantenere la famiglia, e questa è la cosa primaria. Però voglio dire, dai miei ricordo che l'attività venatoria era... c'era una trasmissione familiare, di solito i figli dei cacciatori venivano portati dai genitori a caccia dalla tenera età. Apprendevano l'uso, avevano il primo fucile quando compivano 16 anni, avevano il battesimo del sangue quando uccidevano il primo cinghiale, insomma c'era una trasmissione. È che forse si è interrotta questa linea di trasmissione familiare, e questo potrebbe essere un problema. Sì, il modello di vita e quindi la conseguente visione, la city view, come dicono gli inglesi, credo che sia dominante anche nei centri di un paese super come posso dire, antropizzato come l'Italia, insomma, quindi c'è un po' di città anche nei piccoli paesi, nei piccoli centri, e si è persa la comunità, perché va trasmesso sì in famiglia, nonno padre figlio, ma c'era anche un valore riconosciuto dalla piccola comunità del paese o della frazione, no? Dove il cacciatore rappresentava, è un simbolo estremamente positivo, insomma. Ma era una grande occasione per gli uomini per uscire di casa e stazzare un po' fuori, insomma, c'era una situazione che dava riconoscibilità e, se mi passa il termine, anche un minimo di prestigio, no? Come ruolo sociale, insomma, no? È anche utile per altro verso, perché in campagna si hanno a che fare con le volpi, si hanno a che fare con predatori che ovviamente si mettono in concorrenza con le attività umane. Oggi le volpi sono arrivate anche alle periferie delle città. Però mangiano i rifiuti, insomma. Sì. Un tempo mangiavano accanto ai cassonetti, anche le uova, nella periferia romana è più facile vedere volpi che pantegane, quasi. Non dico così, ma però se vedono parecchie. Andiamo adesso con quello che può essere rappresentante forse del pensiero antitetico rispetto a quello espresso dal presidente Federcaccia, l'avvocato Claudio Linzola. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei invece fa parte della LAC, che è la Lega per l'abolizione della caccia, anzi ultimamente ha anche lanciato una sottoscrizione su una normativa ben precisa che mi sembra mirante a creare dei problemi a chi vorrebbe andare a caccia. Le rispondo subito, più che mirare a creare dei problemi a chi va a caccia, mira a tutelare i proprietari dei terreni sul cui territorio i cacciatori vanno a caccia. Sì, questa, mi ricordo, non è in negativo ma è in positivo l'iniziativa. È un'antica questione, il cacciatore ha libero accesso anche in terreni privati, perché in quanto cacciatore, voi avete proposto una class action che dovrebbe in realtà limitare o far pagare un pedaggio, se ho ben capito, ai cacciatori che passano i terreni privati. L'argomento, così come da lei illustrato, è assolutamente corretto, perché io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori, chiedo scusa, che il diritto dei cacciatori di utilizzare i terreni altrui non è a titolo gratuito, perché la legge quadro sulla caccia, una legge dello Stato, prevedeva fin dal 1992 che fosse dovuto, la legge parla di dovuto, non a seconda della discrezionalità, della disponibilità, è dovuto ai proprietari o ai conduttori dei fondi che sono utilizzati per l'esercizio dell'attività venatoria un contributo in denaro. Ora, nessuna regione, abbiamo fatto una verifica e i contributi che vengono erogati a titolo diverso, nessuna regione ha dato attuazione a una legge dello Stato per cui i proprietari di terreno, non solo i contadini, non solo gli agricoltori, tutti i proprietari di terreni italiani che avrebbero avuto diritto dal 1992 ad avere un contributo annuale per consentire ai cacciatori di esercitare la loro attività, bene, sono stati letteralmente ignorati dalle regioni e da ben quasi 20 anni non percepiscono un euro. Ma forse è un po' complicato attualizzarla, bisogna mettere dei tornelli nei campi coltivati, adesso non so come funziona. Guardi, il meccanismo lo stabilisce la legge. Orbene, noi abbiamo un territorio che è utilizzato a fini venatori, tecnicamente si chiama TASP, territorio agrosilvopastorale, quindi al netto delle città, delle strade, delle montagne, dei laghi che non sono superfici dove si può andare a caccia, abbiamo un numero di cacciatori. Abbiamo un importo che è dovuto, la legge non stabilisce la misura dell'importo, lo rimette alle regioni, quindi i calcoli sono presto fatti e noi li abbiamo fatti per esempio per la regione Lombardia e per altre regioni. Il territorio regionale dove si può cacciare è poco meno di 1.300.000 ettari. Abbiamo ipotizzato una somma di 70 euro all'anno per ettaro e le dico che è un importo molto basso. Ma chi li prende, il proprietario del terreno o la regione? Il proprietario del terreno ha diritto ad avere dalla regione una somma che viene però, attenzione, non pagata dalla, viene pagata dalla regione, ma non con soldi del contribuente. Soldi dei cacciatori, certo. Con il contributo che il cacciatore paga tutti gli anni attraverso la tassa di concessione regionale. Ora, noi abbiamo in Lombardia la tassa di concessione regionale, se non vado errato, è intorno ai 64 euro, va bene? Noi abbiamo fatto il calcolo che per l'anno 2011, se fosse messo a disposizione dei proprietari di terreno, la somma che le ho detto, l'importo totale dovrebbe essere solo per l'anno 2011 di poco meno di 84. Comunque mi sembra di aver capito, scusi avvocato, perché sennò ci perdiamo in una questione che ci porta un po' fuori il Senato. Che alla fine, sì, voi siete la Lega per l'abolizione della caccia, ma vi fermate adesso su un problema tipo normativo, diciamo, intanto prima di abolire la caccia facciamoli pagare quando passano per i terreni. Questa mi sembra un po' la sintesi. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Ecco, comincio a chiamare. Buongiorno a lei. Velocemente. Il suo punto di vista, poi risponderanno gli ospiti. Sì, io sono più contrario che favorevole alla caccia, però quello che mi infastidisce di questo, se lei dà un'occhiata, visto che ha qualcuno anche degli ospiti che può risponderle, dà una risposta obiettiva, io lavoro soprattutto spesso in un pronto soccorso, si faccia dare i dati dei feriti e dei morti che ci sono ogni anno nel settore caccia, non vedo perché la comunità deve pagare una spesa che è enorme, mi credo, enorme per la società venatoria, che non è la società di tutti, oltretutto. Ecco, sì, mi risponderanno. Adesso diamo la linea all'informazione della borsa, poi porterò subito la domanda a chi dei miei ospiti può rispondere. Le risponderanno: si fa molto più male gente giocando a calcetto, molta gente più cadendo dal motorino, fa parte comunque dei rischi di ogni attività, non mi sembra che ci sia una fucilazione di massa. Comunque darò modo di rispondere, intanto riflettono i nostri ospiti tra un istante dopo le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io abito in campagna, ma quando inizia la caccia non si dorme più, perché pari pum pum pa la mattina alle 5, un giorno, non era periodo di caccia, ho sentito dei colpi di fucile che arrivavano in maniera piuttosto regolare. Dunque ho chiamato la forestale, ho indicato una macchina che si vedeva sulla collina di fronte e dopo un po' ritorno quelli della forestale ridendo, dicendomi che nella macchina c'erano due persone, una donna, che stavano facendo l'amore e che quei colpi di fucile in realtà erano degli attrezzi che servivano a scacciare gli uccelli con rumore. Oddio, non è che l'ho capita molto questa. Una coppia si apparta per fare l'amore e mette dei sistemi spaventapasseri attorno alla macchina. La fantasia degli nostri ascoltatori delle volte arriva a vette inarrivabili. Però è sintomatica questa telefonata di uno stato d'animo. Naturalmente il non cacciatore, il residente, il proprietario del fondo odia chi attraversa il suo terreno, odia sentire quegli spari che peraltro sono musica. Svegliarsi al rumore delle fucilate significa per molti dare il senso a una stagione che è iniziata, del tempo che passa, inizia l'autunno comunque con gli spari dei cacciatori e la selvaggina che fugge o che si lascia prendere. Karin, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire, io abito nel parco dei due laghi vicino a Roma, che è una zona protetta. perciò non si spara, o se c'è qualcuno che mette le trappole, che è un'altra cosa. E comunque c'è un soprannumero di cinghiali che fa paura, ormai vanno a mondezze, e perciò dopo l'imbrunire è difficile uscire di casa. È una brutta esperienza, mi è capitato di vedere un cinghialone fermo al lato della propria automobile, fa una certa impressione, questo devo dirlo, sì. Impressione, sì. C'è anche qualcuno che ha aggredito, almeno così si dice. E l'altra cosa sono le cornacchie, che ci sono stormi di cornacchie inimmaginabili. Ma quelle ci sono anche, guardi, ci sono anche a Piazza Mazzini, girano in tutto il mondo ormai. Sì. Svuotano i nidi di tutti gli altri uccelli, perché né i cinghiali né le cornacchie hanno nemici naturali. Il problema è questo. Quindi lei, secondo lei, nel suo parco si è rotto diciamo la catena di protezione ecologica, per cui ormai i rapaci sopravvivono su tutti? Sì, sì, è così, ma i rapaci non ci sono più perché c'erano troppi cacciatori. E quindi adesso qual è, secondo lei, la soluzione? Ma la soluzione sarebbe che i parchi abbiano la facoltà di aprire la caccia a questi animali che appunto per loro non riescono a mantenere un numero naturale. Quindi ci vorrebbe un regolatore, diciamo, di questa eccedenza di animali, visto che si è turbato l'equilibrio ecologico. Questo è chiaro, Karin, poi vediamo se risponderà al nostro ospite. Ave, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. La caccia è una cosa che mi tocca molto. Stamattina, quando ho sentito l'argomento, non avevo letto ancora Facebook, ma si stanno scannando su Facebook, perché naturalmente è un argomento visceralmente trattato, poi alla fine. Sì, io ho un giudizio universale, ma non voglio parlare di questo, proprio un giudizio universale sulla caccia, mio, di rapporto mio con la caccia, però è il mio giudizio. Invece quello che mi offende qua, insomma, mi irrita, mi offende, mi allibisce, mi addolora, è il fatto che il cacciatore non è, come forse qualcuno immagina, una persona che prende, fa dei chilometri, decine di chilometri, centinaia di chilometri e se ne va non so dove, in un posto, insomma, a cacciare. No, io abito a 2 minuti dal centro di Urbino, letteralmente 2 minuti, e questa è una zona quindi praticamente quasi urbana, anche se ci sono delle case isolate, isolate nel senso che ci sono dei campi fra una e l'altra. Ora, la mattina, dalle sabato e la domenica, dalle 6 in poi, qui è un continuo girovagare di cacciatori, che io mi ritrovo nell'aia, nei campi, a sparare, a fare chiasso, ma soprattutto io mi ritrovo... Beh, non è che posso mettere il silenziatore al fucile? No, io proprietà del terreno per me non vuol dire proprietà, proprio per me noi siamo custodi, no? In qualche maniera della terra, ma io soprattutto, non potendo essere custode del pianeta perché è un'idea mia, vorrei essere custode però almeno dei campi che risultano essere di mia proprietà e su cui ad esempio io non posso entrare da geologa, perché un geologo non può andare in un campo a fare una fotografia ad esempio per un motivo di interesse comune. Sì, è il problema comunque... che ha sollevato il nostro ospite prima, sì, l'avvocato, infatti, l'ascoltavo. È una proprietà privata. E allora perché io mi devo trovare delle persone qui quando ci sono degli animali qua di cui io seguo anche la vita, l'ecosistema, eccetera, eccetera, e vorrei che questo continuasse? Anche perché non è semplicissimo parlare con un cacciatore. Vi assicuro che io ci vado in continuazione, perché scendo nell'aia, vado nel campo e dico: abbiate pazienza, siete a 3 metri dalla strada, 1 metro, 10 metri, 20 metri dalla casa, ma dovete immaginarvi una persona in tuta mimetica, stivaloni, fucile, che sembra uscita dai film di guerra più, che insomma, vabbè, lasciamo stare, e ti senti, sinceramente è difficile, vi assicuro che è difficile instaurare un dialogo e dire: guardate, magari un po' più lontano, no? È molto difficile, c'è una specie di violenza e di sopraffazione. Allora il rapporto del cacciatore con la natura può essere diverso dal mio, ok, però assolutamente io non voglio che una persona abbia questo tipo di rapporto con la natura in un posto del quale io sto coltivando, curando, seguendo l'ecosistema naturale. Questa è una cosa per me inaccettabile. Mi sembra molto chiaro, molto chiaro. Io vorrei a questo punto porre una sintesi delle questioni venute fuori al presidente della Federcaccia, Gianluca Dall'Olio, che ci ha sentito, ascoltato pazientemente finora. Mi sembra di aver capito, Gianluca Dall'Olio, che si riassume tutto quello che è stato il sentire degli ascoltatori in due grandi temi. Il cacciatore può entrare in un territorio privato, perché questo glielo consente la legge, e andrebbe regolata comunque o facendo pagare una somma, che però non risolve il problema di quest'altra ascoltatrice, che in realtà sono due mondi antitetici che difficilmente riusciranno mai a convivere, quello del cacciatore e quello di chi dice questo terreno deve essere protetto dal mio punto di vista. Esiste una possibilità di incontro di questi due punti di vista, o in realtà ci si fonderà soltanto su quello che è la legge e il diritto? Finché la legge permetterà di farlo, non ci saranno comunque vie di mediazione. Ma io penso innanzitutto che il valore dell'842, che è il famoso articolo del codice civile che risale a prima della guerra, anzi durante la guerra, penso sia, se ricordo bene, del 1942, che ha messo pace ad una serie di iniziative poco democratiche, perché poco prima esisteva in questo paese, unico in Europa allora, lo ius proibendi, quindi il mezzadro non poteva cacciare, nel contratto mezzadrile era impedito al mezzadro, questo non era democratico, e quindi il sistema allora, sotto il regime fascista, aveva chiarito questo aspetto, quindi c'è una storia anche del diritto italiano, quindi che ha consolidato il principio attraverso l'842 di accesso dato ai cacciatori, ius proibendi prima, quindi impedimento, e poi invece la democratizzazione e l'accesso libero. Ora credo che cambiarlo sia abbastanza un problema nella struttura giuridica del paese, quindi credo che questo serva. Sarebbe secondo lei un passo indietro rispetto a un valore acquisito? No, soprattutto se si dice che il cacciatore deve pagare, il cacciatore paga, in ragione dell'842 il cacciatore paga 170 e passa euro allo Stato ogni anno e all'ambiente, dico all'ambiente, questo Stato non ritorna una lira, lo dico in lire che rende più l'idea. Però mi sembra aver capito che la passa anche a regionale. Sì, però mi scusi, Gianluca Lollio, il problema del pedaggio mi sembra più una maniera un po' pretestuosa, perché alla fine il cacciatore pagherebbe pur di poter esercitare il suo diritto a cacciare. Il cacciatore paga, Nicoletti, il cacciatore paga, perché dopo c'è anche l'ambito territoriale di caccia che deriva dalla disciplina ottenuta, accedere al quale ha un costo. Ecco, questo costo che il cacciatore paga per accedere all'ambito territoriale di caccia, che è un istituto che è stato organizzato e disciplinato dalla 157 del 1992, ovviamente queste risorse che il cacciatore mette a disposizione vengono ritornate all'ambiente, perché in Italia i cacciatori gestiscono a titolo gratuito 15 milioni di ettari di territorio nazionale. Però lei non trova, mi scusi Presidente, che sia un po' difficile gestirla soltanto in termini di diritto? Ormai è una mentalità talmente radicata, quella diciamo dell'avversione al cacciatore, che comincia a essere un po' difficoltoso di gestirla in termini di diritto. La signora che ha telefonato poco fa, la signora geologa, può in teoria far pagare qualsiasi tipo di tassa per accedere al suo terreno. Lei ha proprio una sua ideologica avversione al fatto che qualcuno spari nel suo terreno. Come risolviamo questo problema? È risolvibile? Credo che da un po' di tempo a questa parte risolvere i problemi dal punto di vista ideologico sia un po' complicato. Quindi credo che occorre il buon senso e la capacità amministrativa. Quindi esiste una tecnica amministrativa per amministrare anche il problema caccia. Innanzitutto la signora ha fatto riferimento che ci sono persone a 3 metri, 20 metri dalla strada, 3 metri dalla strada, 20 metri dalla casa. Esistono le misure, sono fissate per legge, che il cacciatore deve rispettare. Se non le rispetta va denunciato, uno. Quindi deve stare a 150 metri dalle case, oggi è scritto così nella 157, e a oltre 50 metri dalle strade di comunicazione. Non le può frequentare, non le può nemmeno attraversare col fucile, se non in custodia. Quindi queste sono regole scritte, non le ho inventate io, sono scritte nella 157 e vanno rispettate. Credo poi, fra l'altro, al di là, uscendo un attimino dello stereotipo, della tuta mimetica, esistono cacciatori vestiti in lodine, esistono cacciatori vestiti in velluto, esistono cacciatori di ogni tipo, non soltanto quelli in grigio-verde o in tuta mimetica. Se lei capisce che è facile cavalcare tutti i luoghi comuni quando sono argomenti così viscerali. Certo. E poi mi risulterebbe un po' strano che il geologo, il fotografo, visto che si vedono in mostre foto di natura, fatte da fotografi, foto di geologia o interventi ammessi e permessi dal sistema della democrazia vigente in questo paese, quindi mi sembra un po' eccessivo, ideologicamente eccessivo, la distinzione che mi sono sentito dire prima, anche a riguardo il costo che i feriti della caccia. No, scusi, guardi, siccome questo è un argomento delicato, non volevo interromperla, devo dare la linea all'informazione del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao, sono Antonio. Senti, io ho vissuto tanti anni in Argentina e sono andato in caccia in Argentina, ma quando sono andato in Italia mi sono messo a ridere, perché cacciare in Italia con l'autostrada che ti passano 50 metri o vicino a un paese c'era stato molto in contrasto. Voglio dire che la caccia deve essere a spazio aperto, a tante distanze e verso il centro abitato. Beato questo ascoltatore può andare a cacciare negli ampi spazi dell'Argentina, ma chi deve accontentarsi di andare a caccia nel proprio territorio, nella propria regione, naturalmente a spazi più angusti. Avevo interrotto Gianluca Dall'Olio, presidente della Federcaccia. Vedi, aggiungiamo continuamente elementi, continuano a scrivermi su Facebook che trovano i cacciatori vicino a casa con il fucile in mano. Ecco, nel caso che uno cogliesse un cacciatore in una palese infrazione dei regolamenti, cosa deve fare, chi deve chiamare, così diamo anche lo strumento. Esistono le guardie provinciali, esiste la forestale, esistono anche i carabinieri in questo paese, quindi tutti sono, come posso dire, nelle condizioni di poter fermare chi ha sviluppato l'infrazione, chi non ha rispettato le norme di legge. Insomma, questo eviterei la discussione personale, direi. Non sia molto diffusa, insomma, credo che sia eccezionale il non rispetto delle regole, come in ogni altra situazione, insomma, ecco, di irresponsabilità. Ecco, parliamo degli incidenti, visto che molti dicono che si sparano addosso, si sparano tra di loro, feriscono le persone. C'è una statistica. La risposta prima esistono attività del tempo libero all'aria aperta che sono molto più onerose, se possiamo dire, dal punto di vista degli incidenti rispetto alla caccia. Anche il ciclismo, ad esempio, per non parlare dello sci e della ricerca dei funghi. Non sono costosi, non sono onerosi comunque, credo, perché per quanto riguarda i cacciatori hanno l'obbligo di legge di essere assicurati e poi esistono oggi garanzie assicurative un po' più onerose rispetto a quelle previste di base della norma, della 157, norma che regola la questione e quindi sono a carico dello stesso cacciatore, insomma, quindi non è un costo per la società. Né il risarcimento né le eventuali cure, insomma, quindi è obbligatorio non soltanto la responsabilità nei confronti di terzi, è obbligatorio anche l'assicurarsi contro gli infortuni a se stessi. Insomma, quindi... Sentiamo qualche altro ascoltatore. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza. Sono circa 3 anni che ho fatto un ritorno alla natura, vuoi per amicizie, vuoi per cose, ho iniziato ad andare a caccia, ho fatto tutta la trafila burocratica per poter avere la possibilità di effettuare questa attività, lì si è aperto un mondo che non credevo così bello, al di fuori dell'attività venatoria di per sé, tutto quello che gira attorno ad essa, un contatto così diretto con la natura, molto particolare, un qualcosa che ti spinge ogni fine settimana, quantomeno quando si ha il tempo libero, ad uscire fuori, a esplorare dei posti, che poi si tira la fucilata o meno, quello non importa. E in più ho scoperto una cosa molto più importante che nessuno, che parecchi evitano di dire, che soprattutto nel territorio italiano, se poi andiamo oltre confine, dove anche vado a caccia, come in Francia, Svizzera, Austria soprattutto, dove le leggi, un'etica sociale funziona molto meglio che in Italia, diciamo l'ambito venatorio lì è considerato in modo altissimo. In Italia quello che spesso si esclude è che esistono due capitali, il capitale umano e il capitale faunistico in Italia. Nel momento in cui cresce il capitale umano, ovviamente il capitale faunistico, che è più debole, specialmente in alcune specie, si racchiude in spazi sempre più piccoli e questi spazi devono essere gestiti. Quindi lei ho mandato la telefonata, perché sennò sembra che in Italia non sia rappresentata questa categoria, è un cacciatore perfettamente consapevole anche del suo ruolo, che lo fa con piacere, che fa parte di una delle sue lecite e consentite attività. Sentiamo però Francesca invece. Buongiorno, io veramente questa persona che ha parlato adesso, l'ammiro perché non mi risulta che molti cacciatori siano così ligi. Sì, però guarda, io non voglio sembrare questa mattina al pallino la caccia, ma mi piace andare contro i luoghi comuni. Allora va benissimo se la caccia ci saranno ligi e cialtroni come in ogni attività umana. Però io che ho una casa in Toscana, le assicuro che non è la realtà. Normalmente la realtà è anche mettere le trappole, che è una cosa ignobile, ma è contro la legge. Foraggiare gli animali tutta l'estate con acqua e cibo per poi sedersi e sparargli quando vengono a mangiare. Sta parlando di episodi di bracconaggio simili, è chiaro, sono cose contro la legge. Non è nemmeno consentito scippare le vecchie fuori delle poste, è chiaro, però lo fanno. Io non sto parlando di bracconaggio, io sto parlando di cacciatori che hanno questa metodologia, come avere una metodologia di tenere i cani in maniera indegna tutto l'anno per poi quando per il cacciatore il cane vale più della moglie. Scusi, adesso nessun cacciatore maltratta il suo cane. Se è un cacciatore, metti su una bilancia la moglie e il cane, sceglierà il cane, secondo me. Gianluca Dall'Olio, rispetto a queste ultime telefonate? Beh, innanzitutto ringrazio, spero che sia un giovane, dalla voce mi pareva tale, quindi se c'è questo tipo di approccio a un'attività come questa anche da parte dei giovani cittadini italiani mi fa molto piacere, credo doveva far piacere. Sulla telefonata della signora rispetto alle trappole, le trappole sono proibite, la pastura sono ammesse dalla normativa francese, quindi le piégeage è regolamentato in maniera eccellente in quel paese, noi invece da anni abbiamo proibito, sono severamente proibite. Le posso ricordare che sempre da quell'indagine a cui facevo riferimento prima, l'80% dei cacciatori condanna duramente ogni forma di bracconaggio, ritenendola questa lesiva della propria identità di cacciatori che vanno distinti dai bracconieri. Sul cane è fuori di dubbio che tratti bene il cane, con quello che costa, immagino se lo tenga bene. Porti di spesa come costo che il cacciatore sostiene ai diversi livelli, e secondo anche le possibilità del portafoglio, uno degli importi di spesa sono le spese veterinarie, l'acquisto del cane e il mantenimento del cane. Quindi anche questo è un luogo comune, che solo i cacciatori in questo paese maltrattino il fedele amico. Credo che sia un assoluto luogo comune. Non anche è perché vero, fa parte del suo capitale, quindi è un po' difficile, lo tratti male. Leonardo, chiudiamo con Leonardo. Sì, velocemente, abbiamo 30 secondi. Volevo dire due cose. Innanzitutto sì, io sono cacciatore, ma quando si apre la caccia c'è sempre questa grande confusione, però i nostri amici verdi non dicono invece di quanta strage indiscriminata fanno le automobili sulle strade di ogni tipo di animale. Io ho un dato tedesco che dice che più di 700.000 capi di selvaggina vengono investiti dalle automobili in un anno. Questa è la prima cosa. E la seconda è per quanto riguarda la legislazione. In Austria, ad esempio, la selvaggina è di proprietà del proprietario del terreno, il quale fitta i propri terreni alla caccia e trae un reddito integrativo. E quindi questo taglierebbe naturalmente la polemica che sta sorta all'inizio della trasmissione, ma mi sembra che in realtà il punto polemico sia una questione prettamente, puramente e radicalmente ideologica, che è un po' difficile da comporre attraverso gli strumenti legislativi. A domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.